Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas. Traduzione di Marisa Zini. D'Artagnan continuò la propria strada. Aveva dato la parola di non spiare Madame Bonacieux. E quando anche la vita di lei fosse dipesa dal luogo dove stava per recarsi o da chi doveva accompagnarla, il giovane sarebbe tornato a casa giacché si era impegnato. 5 minuti dopo era in Rue des Fossoyeurs. «Povero Athos», diceva, «non capirà un H di tutto ciò. Si sarà addormentato mentre mi aspettava, oppure se ne sarà tornato a casa e là avrà saputo che c'era stata una donna. Una donna da Athos. Dopotutto, egli continuò, ce n'era ben una da Aramis. Tutto ciò è stranissimo e sarei proprio curioso di sapere come finirà la cosa. Male, signore, male, rispose una voce che il giovane riconobbe per quella di Planchet. Come male? Che vuoi dire, imbecille? Chiese D'Artagnan. Che è successo? Ogni sorta di guai. Quali? Prima di tutto, Monsieur Athos è stato arrestato. Arrestato? Athos? Perché? L'hanno trovato qui. L'hanno scambiato per voi. E da chi è stato arrestato? Dalle guardie che quegli uomini neri messi in fuga da voi sono andati a chiamare. Perché non ha detto il suo nome? Perché non ha detto che non ci entrava in quella faccenda? Se n'è ben guardato, signore. Anzi, mi si è avvicinato e mi ha detto... È il tuo padrone che in questo momento ha bisogno della sua libertà. E non io, perché lui sa tutto e io niente. Lo crederanno in prigione e questo gli darà tempo. Fra 3 giorni dirò chi sono e bisognerà pure che mi facciano uscire. Bravo Athos, nobile cuore, mormorò D'Artagnan. Come lo riconosco in questo gesto. E che hanno fatto gli sbirri? 4 l'hanno portato via, non so dove. Alla Bastiglia o a Fort-l'Évêque. 2 sono rimasti con gli uomini neri che hanno frugato dappertutto e hanno preso tutte le carte. E Porthos e Aramis? Non li avevo trovati, non sono venuti. Ma possono venire da un momento all'altro. Sì, signore. Bene, non muoverti di qui. Se vengono, avvertili di ciò che m'è capitato, che mi aspettino all'osteria della Pomme de Pin. Qui sarebbe pericoloso. La casa può essere spiata. Corro da Messia de Treville per riferirgli tutto e li raggiungo. Benissimo, signore, disse Planchet. Ma tu rimarrai, non avrai paura, aggiunse D'Artagnan tornando sui suoi passi per raccomandare il coraggio al servitore. State tranquillo, signore, rispose Planchet. Non mi conoscete ancora. Quando mi ci metto, sono coraggioso. L'essenziale è mettermici. D'altronde, sono un piccardo. Allora intesi? Ti farei uccidere piuttosto che abbandonare il tuo posto. Sì, signore, e farei qualsiasi cosa per provare al signore che gli sono fedele. E con tutta la sveltezza delle sue gambe, già un po' stanche per le corse della giornata, D'Artagnan si diresse alla volta di Rue du Vieux Colombier. Proprio mentre giungeva all'altezza di Rue Guénégaud, D'Artagnan vide sbucare da Rue Dauphine una coppia che lo colpì per la sua andatura. Formavano la coppia un uomo e una donna. La donna aveva la sagoma di Madame Bonacieux e l'uomo rassomigliava ad Aramis tanto da confondercisi. In più l'uomo indossava l'uniforme da moschettiere. Il cappuccio di lei era abbassato, lui si teneva il fazzoletto sul viso. Entrambi, e lo dimostrava quella duplice precauzione, avevano quindi interesse a non essere riconosciuti. Imbucarono il ponte. Era la strada di D'Artagnan, poiché questi si recava al Louvre e perciò li seguì. Non aveva fatto 20 passi che fu certo che la donna era Madame Bonacieux e l'uomo Aramis. In quel momento stesso sentì tutti i sospetti della gelosia agitarglisi in cuore. Era doppiamente tradito, e dall'amico e da colei che già amava come un amante. Madame Bonacieux gli aveva giurato e spergiurato che non conosceva Aramis e un quarto d'ora dopo quel giuramento la ritrovava al braccio di Aramis. La donna e l'uomo s'erano accorti di essere seguiti e avevano affrettato il passo. D'Artagnan prese la corsa, li oltrepassò, poi tornò al loro incontro nel momento in cui si trovavano davanti alla Samaritaine, illuminata da un lampione che proiettava la sua luce su tutta quella parte del ponte. Si fermò davanti a loro e quelli si fermarono davanti a lui. «Che volete, signore?» chiese il moschettiere indietreggiando d'un passo e con un accento straniero che provava a D'Artagnan che gli si era ingannato in parte delle sue supposizioni. «Non è Aramis!» esclamò. «No, signore, non è Aramis! E da questa vostra esclamazione capisco che mi avete scambiato per un altro e vi perdono!» «Mi perdonate!» esclamò D'Artagnan. «Sì!» rispose lo sconosciuto. «Lasciatemi passare, dunque, visto che non avete a che fare con me!» «Avete ragione, signore!» disse D'Artagnan. «Non ho a che fare con voi, ma con la signora!» «Con la signora?» «Non la conoscete!» ribatté lo straniero. «Vi ingannate, signore! La conosco!» «Appoggiatevi al mio braccio, signora!» disse lo straniero. «E continuiamo la strada!» Tuttavia D'Artagnan, stordito, abbattuto, annichilito da tutto ciò che gli stava capitando, continuava a rimanere lì impalato, con le braccia incrociate davanti al moschettiere e a Madame Bonacieux. Questi fece due passi avanti e scostò D'Artagnan con la mano. Il giovanotto fece un balzo indietro e sguainò la sciabola. Al tempo stesso, con la rapidità del fulmine, lo sconosciuto trasse la sua. «In nome del cielo, milord!» esclamò Madame Bonacieux gettandosi tra i due contendenti e afferrando con le mani le spade. «Milord!» gridò D'Artagnan, cui un lampo attraversò il cervello. «Milord, scusate, signore, ma sareste forse... Milord, duca di Buckingham!» sussurrò Madame Bonacieux. «E adesso potete perderci tutti!» «Milord... signora, perdono, mille volte perdono, ma l'amavo, milord, ed ero geloso. Voi sapete cosa sia amare. Milord, perdonatemi e ditemi come posso farmi uccidere per vostra grazia.» «Siete un bravo giovanotto», disse Buckingham, porgendo a D'Artagnan una mano che questi strinse rispettosamente. «Mi offrite i vostri servigi, li accetto. Seguiteci a 20 passi di distanza fino al Louvre, e se qualcuno ci spia, uccidetelo.» Madame Bonacieux e il duca entrarono al Louvre senza difficoltà. Si sapeva che Madame Bonacieux era al servizio della regina. Il duca portava l'uniforme dei moschettieri di Monsieur de Tréville, che, come dicemmo, era quella sera di guardia. D'altronde, Germain era devoto alla regina e, se capitava qualcosa, Madame Bonacieux sarebbe stata accusata di aver introdotto al Louvre il suo amante e basta. Lei si assumeva la colpa. La sua reputazione era rovinata, ma che valore aveva in quelle alte sfere la reputazione di una piccola merciaia? Una volta entrati nell'interno del cortile, il duca e la giovane donna seguirono la base del muro per un 25 passi circa. Dopodiché Madame Bonacieux spinse una porticina di servizio, di giorno aperta, ma di solito chiusa di notte, la porta cedette. Tutti e due entrarono e si trovarono nell'oscurità, ma Madame Bonacieux conosceva tutti i meandri di quella parte del Louvre destinata alle persone del seguito. Richiuse le porte alle spalle, prese il duca per mano, fece alcuni passi a tastoni, afferrò una ringhiera, tentò un gradino con il piede e incominciò a salire una scala. Introdusse una chiave nella serratura, aprì una porta e spinse il duca in un appartamento rischiarato soltanto da una lampada notturna, dicendo: «Restate qui, milord duca, verrà qualcuno.» Poi uscì dalla stessa porta che chiuse a chiave, sicché il duca si trovò letteralmente prigioniero. Tuttavia, per quanto isolato completamente, dobbiamo dirlo, il duca di Buckingham non provò un attimo di paura. Coraggioso, ardito, intraprendente, non era la prima volta che rischiava la vita in tentativi del genere. Aveva saputo che il preteso messaggio di Anna d'Austria sulla cui fede era venuto a Parigi, era un tranello. E invece di tornarsene in Inghilterra, approfittando della situazione creatasi, aveva comunicato alla regina che non sarebbe partito senza averla veduta. Rimasto solo, Buckingham si avvicinò a uno specchio. L'abito da moschettiere gli stava a pennello. In quell'istante stesso una porta nascosta nel parato si aprì e apparve una donna. Buckingham vide quell'apparizione nello specchio. Lanciò un grido. Era la regina! Anna d'Austria aveva allora 26 o 27 anni, ossia si trovava nel pieno fulgore della sua bellezza. L'incedere era quello di una regina o di una dea. Gli occhi che mandavano riflessi di smeraldo erano bellissimi, pieni al tempo stesso di dolcezza e di maestà. La bocca era piccola e vermiglia, e benché il labbro inferiore, come quello dei principi di casa d'Austria, sporgesse leggermente sull'altro, si atteggiava con straordinaria grazia al sorriso, ma anche con profondo sdegno al disprezzo. La sua pelle veniva citata per la morbidezza di velluto. Le mani e le braccia erano d'una bellezza mirabile, e tutti i poeti del tempo le decantavano come incomparabili. Per un attimo Buckingham rimase abbagliato. Mai la regina gli era apparsa così bella. Anna d'Austria avanzò di due passi. Buckingham si precipitò alle sue ginocchia e prima che la regina avesse potuto impedirglielo, le baciò l'orlo della veste. Duca, sapete già che non fui io a farvi scrivere. Oh sì, signora, sì, maestà, esclamò il duca. So che sono stato un pazzo, un insensato a credere che la neve si sarebbe animata e il marmo riscaldato. Ma che volete, quando si ama, si crede facilmente all'amore. D'altronde non ho perduto tutto in questo viaggio. Perché vi vedo. Sì, rispose Anna, ma voi sapete perché e come vi vedo, milord. Vi vedo per compassione per voi stesso. Vi vedo perché, insensibile a tutte le mie pene, vi siete ostinato a restare in una città dove, restandoci, voi rischiate la vita e a me fate rischiare l'onore. Vi vedo per dirvi che tutto ci separa. Le profondità del mare, l'ostilità dei regni, la santità dei sacramenti. Insomma, vi vedo per dirvi che non dobbiamo più vederci. Parlate, signora. Parlate, regina, disse Buckingham. La dolcezza della vostra voce copre la durezza delle vostre parole. Milord, esclamò la regina, dimenticate che non ho mai detto di amarvi, ma neppure mi avete mai detto di non amarmi. E veramente dirmi simili parole sarebbe da parte di vostra maestà un'ingratitudine troppo grande. Perché ditemi, dove trovate un amore simile al mio? Un amore che né il tempo, né l'assenza, né la disperazione possono spegnere. Un amore che si accontenta di un nastro smarrito, di uno sguardo vago, di una parola sfuggita per caso. Sono 3 anni, signora, da che vi ho veduta per la prima volta. E da 3 anni vi amo a questo modo. Volete che vi dica come eravate vestita la prima volta che vi vidi? Volete che specifichi ogni ornamento del vostro abito? Quale follia, mormorò Anna d'Austria, alimentare con simili ricordi un'inutile passione. E di che volete mai che io viva? Non ho che ricordi io. È la mia felicità, il mio tesoro, la mia speranza. Ogni volta che vi vedo è un diamante in più che richiudo nello scrigno del mio cuore. Questo è il quarto che lasciate cadere e che io raccolgo perché in 3 anni, signora, vi ho veduta soltanto 4 volte. La prima che vi ho detto orora, la seconda da Madame de Chevreuse, la terza nei giardini di Amiens. Duca, disse la regina arrossendo, non parlate di quella sera. La calunnia si impossessò di tutte quelle follie nelle quali io non c'entravo affatto, lo sapete bene, milord. Il re, sobillato dal cardinale, fece un terribile scandalo. Madame de Vernet fu scacciata, Putange esiliato, Madame de Chevreuse cadde in disgrazia, e quando voi voleste tornare in Francia come ambasciatore, il re stesso, ricordatevene, milord, il re stesso vi si oppose. Sì, e la Francia pagherà con una guerra il rifiuto del suo re. Non posso più vedervi, signora. Ebbene, voglio che ogni giorno udiate parlare di me. Non ho la speranza di penetrare a mano armata fino a Parigi, lo so, ma questa guerra porterà una pace. Questa pace avrà bisogno di un negoziatore. Quel negoziatore sarò io. Allora non oseranno più rifiutarmi e tornerò a Parigi. E vi rivedrò e sarò felice un attimo. Migliaia di uomini, è vero, avranno pagato la mia felicità con la vita, ma che importa, purché vi riveda? Tutto ciò è forse pazzesco, forse insensato, ma ditemi, quale donna ha un amante più innamorato? Quale regina ha avuto un servitore più ardente? Milord, voi invocate in vostra difesa cose che vi accusano. Milord, tutte queste prove d'amore che volete darmi sono quasi delitti. L'avete detto voi stessa, interruppe il duca. Mi hanno attirato in un tranello. Forse ci lascerò la vita, perché, ecco, è strano, da qualche tempo ho dei presentimenti che morrò presto. E il duca sorrise con un sorriso malinconico e affascinante al tempo stesso. Oh mio Dio! Esclamò Anna d'Austria. Anch'io, duca, ho dei presentimenti. Ho sognato che vi vedevo sdraiato tutto sanguinante, ferito. Partite, partite, ve ne supplico, e tornate fra qualche tempo, tornate come ambasciatore, tornate come ministro, tornate circondato da guardie che vi difendano, da servi che veglino su di voi, e allora non temerò più per i vostri giorni e sarò felice di rivedervi. È proprio vero quello che mi dite? Sì. Ebbene, un pegno della vostra indulgenza, un oggetto che venga da voi e che mi ricordi che non ho sognato, qualcosa che abbiate portato e che io possa portare a mia volta, un anello, una collana, una catena. E partirete, partirete se vi dono ciò che mi domandate. Sì, ve lo giuro. Aspettate allora, aspettate. E Anna d'Austria rientrò nel suo appartamento per riuscirne quasi subito, con in mano un cofanetto di bois de rose, con le sue iniziali, incrostato d'oro. «Prendete, milord, prendete», disse, «serbatelo in memoria di me».